Come mai il governo Berlusconi si è mostrato così restio a fornire informazioni sulla questione delle navi dei veleni? Il governo non poteva dire di aver trovato una nave dei veleni, perché questa questione si inserisce nel rilancio da parte di questo governo del nucleare. E siccome la questione delle navi dei veleni al, diciamo, 50%, al 60% è legata anche al traffico del rifiuto nucleare proveniente in massima parte dallo stesso nucleare italiano, ritrovare una nave con rifiuti nucleari avrebbe significato la fine del progetto di rilancio del nucleare di fronte all'opinione pubblica italiana, che sicuramente non avrebbe accettato l'idea che appunto il rifiuto del nucleare finiva nei nostri stessi mari. Siccome dietro il nucleare, il rilancio del nucleare in Italia, c'è una infinità di investimenti, di denaro pronto sia a livello italiano che a livello europeo che a livello internazionale, non si poteva perdere e fermare una situazione del genere, appunto, ritrovando una nave. Il tipo di sviluppo industriale italiano, europeo, produce rifiuti tossici, produce quindi morte, per tumore, perché andare a vedere che nelle navi ci sono i rifiuti della Montedison, della Fiat, dell'Enichem, dell'Enel e quindi, diciamo, dell'industria bene italiana, e anche questo metterebbe in discussione appunto il sistema industriale, lo sviluppo, il tipo di sviluppo sul quale ha puntato l'Europa negli ultimi 50 anni. Secondo la DIA, qual è stata la prima nave affondata nei mari calabresi? E quante altre navi sono state affondate prima dello spiaggiamento della Jolly Rosso? Secondo un rapporto della direzione investigativa antimafia, il primo affondamento sospetto è avvenuto nel 1979 e si parla di una nave che si chiama ASO, che è stata costruita nel 1961 ed è affondata al largo di Locri il 17 maggio 1979. Si sa pure che questa nave conteneva 900 tonnellate di solfato ammonico, che è una sostanza appunto altamente tossica e derivata da prodotti usati nelle industrie chimiche. La DIA ha anche indicato la latitudine, la longitudine, quindi per dire che il punto nel quale la nave è affondata è un punto preciso. In Calabria ce ne sono state tantissime altre, c'è stata per esempio Latina R, che molto probabilmente che è affondata davanti Capo Spartivento, c'è la Elbe, affondata nel 1984 al largo di Bova, in provincia di Reggio Calabria, c'è la Maria Pia nel 1986, affondata a Capocolonna davanti Crotone, c'è la Rigel nel 1987, affondata a Capo Spartivento, e poi appunto nel 90 arriviamo appunto alla Jolly Rosso. La particolarità della Jolly Rosso rispetto alle altre navi qual è? Che la Jolly Rosso è stata l'unica nave fra le centinaia che sono state affondate e sparite nel Mediterraneo che non è affondata.